scuola con noi, sottile, pallido e un po' perso. Tu già da noi così diverso e triste. Penso a te, ricordo si rideva tra noi di quel tuo sguardo di bambina, di quella tua dolcezza strana e triste. Ti ho rivisto questa sera. Però sotto il trucco gli occhi sono i tuoi. Non ti arrendi a un corpo che non vuoi sentire. Pier, sono grande ed ho capito. Blue!